dice che stava cambiando, dice che stava cambiando un po' apparato. Ho già fatto, l'ha mica fatto la fumata indiana. Aiutore. Sì, sì, è che mi chiamo, avanti. Dai, Tore. Perché io c'è stato un solo accavallamento. Ciao, allora, Archibald, mi sembra, che ha chiamato. Ma c'è sempre il grilletto nel coso che canta, nel microfono. Non so se tu riesci a metterlo a posto, vedi un po' tu. Ma non ho capito più se stai chiudendo o se stai, diciamo, chiedo qualche controllo. Avanti. Sto rimontando il tutto, dai. Che poi quando è montato vi faccio sapere. Ciao, buon anno. Ah, ok. Se ti può consolare adesso in questo passaggio, il microfono era buono, perfetto. No, non c'era più quel dolore che c'era dietro, con un grillo, capito? Va bene, d'accordo. Alla prossima, allora stai chiudendo. Siamo qua in frequenza, comunque fate sentire spesso, io di solito entro frequenza il sabato e la domenica, perché sono gli unici giorni della settimana alla quale io ho il tempo per potermi dedicare 10 minuti, mezz'ora, anche un'ora, a volte dipende, al baracchino. Poi negli altri giorni chiaramente non sarà molto difficile ascoltarmi, perché io lavoro dalla mattina alla sera, come tutti ovviamente, ma io sono un autonomo e ho tanti problemi di tempo e di consegne, eccetera, eccetera, capito? Comunque mi fa molto piacere se ti fai di ascoltare, così almeno incrementeremo un pochino questa frequenza, che mi sa che sta andando un pochino deriva. Va avanti, Sandro. Ok, Giulio. Va bene. Sembra che la frequenza piano piano si stia svegliando, dai. Un po'. Diamo un po' di tempo al tempo. Va bene, ok. Un attimino di fianco da parte mia. Riprendi, Giulio. Ok, riprendo io molto volentieri e rilancio subito il microfono al Lucino. Avanti, Lucino. Ok, saluto l'amico di Patatango e piacere di averlo ascoltato. E Giulio, se ti dico chi sono, forse mi conosci anche verticale. Io credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Ascolta, Lucino. Dimmi, o sei tu Gianni o qualche tuo fratello? Ho capito, Giulio. Ho chiesto, o sei tu Gianni, se ti chiami Gianni, oppure qualche tuo fratello o qualche parente, non lo so. Negativo Giulio. Io sono, non so se ti è mai capitato il venire a tempi indietro, che tu mi sembra che fumavi, no? No, io mai fumato, mai bevuto, sono assolutamente astemio, sia per il fumo che per il bere. Dunque, non ho fatto tantissimi anni di sport, dunque la mia condizione fisica non mi permetteva né di fumare, a parte il fatto che non mi è piaciuto, non me lo sapore, anzi, devo dire che mi dà quasi fastidio quando sento gli altri fumare, quando sento che non mi fumo. E tantomeno ho mai bevuto roba alcolica, eccetera, eccetera, no, non l'ho mai piaciuta, nemmeno quando pranzo io bevo. Niente. Scappa, no, c'era problema, no. No, forse ci saremmo conosciuti tramite Claudio Sparviero e l'ospedale, avremmo preso qualche caffè assieme, non è quello il problema. Vi siete sovrammodulati, eh? Mi sembra che c'era Salvatore che stava parlando al protettore. Salvatore, e tu? La radio è perfetta, è in 5 perfetta, almeno con il microfono per la tua timbrica va bene, non ci sono dubbi. E se mi avete, per almeno quello di cosa, come si chiama, di Giampaolo, è uguale, identico, non so se può cancellare ascoltato, dunque è sempre quello, 5.6. Beh sì, non ci sono dubbi, Carciofo, Chietti, via discorrendo, poi gli altri Toccai e tanti altri che ce n'erano lì a Pozzatorre che non si sono più sentiti, e certo, no, tantissimi amici di allora, che si faceva anche la partita a Battaglia Lazzaro, mi ricordo. ricordo, questo 25 anni fa, 30 anni fa, addirittura, vabbè, senti che furono sabato. Io. Ciao Tore. Ciao Tore. Mi hai ascoltato, dai. Ok. Vabbè. Tore, adesso mi hai ricordato dei vecchi nominativi, capito? Vecchi nominativi dei vecchi tempi. Vecchi tempi dove si battagliava e dove allora la 27, diciamo, era ben sentita e ben popolata. Ok, vabbè. Giulio, tempi diversi, tempi, non so, se non tempi migliori o che cosa pensi? Ma sai, io osservo che la vita, tu lo sai quanto me, e forse anche meglio di me, è a momenti, no? Ci sono dei momenti buoni e dei momenti meno buoni, così anche per quanto riguarda l'umore e il comportamento delle persone. Io sinceramente mi sono sempre trovato bene, io non ho mai litigato con nessuno, sono sempre d'accordo, perché parto sempre da questa idea. Cioè il mio principio è questo: se sento qualcuno che si comporta male, io lo lascio bollire nella sua pentola, non lo raccolgo e non alimento nessuna discussione che mi possa comportare dei comportamenti ancora più, diciamo così, più sbagliati, ecco. Perché secondo me chi si comporta male sbaglia e basta. Poi per il resto, come non mi ci dico, noi siamo in pochi, beh, devo dire che rimpiango i tempi passati, intanto per numero di persone, perché nonostante che c'erano persone che non si comportavano molto bene, ma ce n'erano sicuramente molti, ma molti, molti, molti di più che si comportavano benissimo. Di conseguenza, diciamo che in un certo senso c'era un recupero rispetto a quelle persone maleducate da parte di tutti quelli che si sono comportati bene, c'era un recupero che ci faceva stare bene, insomma, ecco, non niente di più, Sandro, dai. Ok, Gio, lo so, vabbè, purtroppo diciamo gente comprensibile, gente che riflette, gente esiste anche, diciamo, fuori dalla 27. Quindi in questo mondo non si è tutti uguali. Se fossimo stati tutti uguali, allora sarebbe stato un vero casotto. Il mondo, diciamo, è bello perché è vario e così via. Non lo so, adesso stiamo arrivando a dei periodi, adesso forse perché il periodo, e speriamo che questi periodi, diciamo, questo 2010 se lo porti via, il 2011 sia migliore per tutti, diciamo, in generale. I tempi nostri, io ti parlo di 20, come posso dire, 20, 25 anni fa, forse anche 30, era diverso. Niente, si divertiva, insomma, tutto un altro paio di maniche, tutto lì. Vabbè, comunque, l'importante è tirare avanti nei migliori dei modi e fare sempre, diciamo, sempre nel modo più appropriato, diciamo, che uno potrebbe fare, tutto lì. Vediamo un po' se Giampaolo ha rimesso il tutto. Giampaolo. Yeah, I'm just going to have to do it. già fa. Ma quale stai usando? Il microfono quello del formale? Ho capito. Non c'hai altro da abbinare a quella scatola? Ok Sandro, io ti ringrazio, ti ringrazio e ti auguro tutto il bene che tu vuoi, per te e per la tua famiglia, ci mancherebbe altro. Io spero proprio che il prossimo anno sia di gran lunga più bello e più buono di quanto lo è stato quest'anno. Quest'anno c'è stata un po' di crisi, va bene, e qualcuno non aveva il lavoro, io fortunatamente il lavoro ce l'ho ancora, non naturalmente come prima, è chiaro che, anche perché, sai, sto diventando un pochino in avanti con l'età e allora di conseguenza certi lavori anche non li faccio, nel senso che se è un lavoro troppo lungo, troppo grande, troppo pesante, allora per forza si sa, sono venuti al vicino, nel senso che prima quando avevo 25 anni abbracciavo il mondo intero, oggi che ne ho quasi 69, allora la storia è diversa e di conseguenza non posso, cioè, diciamo che sto nei tempi e mi accontento, tutto lì, anche se sinceramente mi sento bene, mi sento in grande forma. Ciao ancora Sandro, salutone, a risentirci, eventualmente ci sentiamo domani se hai tempo da accendere l'apparato. Ancora auguri e buon divertimento per stanotte. Vai Gianfa. Capata, ok, d'accordo. Allora, buon guardini Sandro, con i peccato lo devi fare. E arriviamo a parlare sempre la stessa maniera, mi adoro, sempre. Noi mi dà un grande culo. Ok, buon guardini con i pecca e velocità. Buon anno. Ciao ciao. Ok, dai, sì, divertimento da parte mia negativo. Me ne andrò giusto a coltivare la campagna, giusto per fare compagnia un attimino ai vecchietti. Normale routine, normale giornata, diciamo, e così via. Tutto lì. Ok. Se coincide magari ci sentiamo da giù, se non coincide con tutto alle prossime. Ok, riprendo ancora io, sa, va bene voi, io lo stesso, in famiglia qua, sono ricorrenze queste che è meglio stare tutti insieme, poi c'è una marea di amici di mia figlia, qui una quindicina di persone, tutta gente laureata come lo è lui, mia figlia, di conseguenza quest'anno gli ho messo a disposizione la casa, la festa fatevela qua e non se ne parla più. Dice ci fai un grande favore, intanto perché risparmiamo un sacco di soldi, perché andare fuori costa quello che costa e allora è preferibile sicuramente stare a casa, siccome la casa è abbastanza grande io, perciò io le lascio una tavernetta a conto suo o a conto di loro, anzi, e si divertiranno fra i giovani eccetera eccetera. Ciao ancora, salutoni, alle prossime. Vai Gianpa, ma mi sembra che c'è anche Leoncino, mi lancia Leoncino dopo, vai Gianpa. Veramente, ok, c'è anche altri padri, siamo stati veramente a Gianpa, e ciao, vai, no, mi sto sentito lì a Sandro, attualmente contraccampo gli altri a Sandro, non dire. Buon anno, e oggi va bene, d'accordo, allora va bene Giulio, anche a te, tanti auguri, e alla mia, tanti auguri, e dopo passo lì a compare, che mi sto lontanando un attimino, e mi saluti a Leoncino, Ok, Tone, Salvatore, ci sentiamo allora, fate sentire che mi fa piacere discutere con gli amici OK. Bene, io non so se stai chiudendo, ma mi sembra di aver capito che stai chiudendo, in quel caso lì ti faccio tantissimi auguri di buon anno e grande felicità per te e per la famiglia, e per tutti gli amici anche, perché no, ci mancherebbe, sono molto importanti gli amici. Va bene, vediamo un po' se c'è Leoncino ancora. Leoncino, ci sei ancora? Che ci sono Giulio, beh, se manco io qua è molto la frequenza. Magari, io ti prendo parola, tu ci devi rimanere a lungo, veramente, così almeno diciamo che sarai o diventerai il trascinatore di di tutti i cibi e così diventeremo di nuovo numerosissimi come una volta. Oh, Leonci, riprendi per salutare Salvatore e anche all'amico Sandro che non so, probabilmente ha già chiuso, vai. Allora io quello volevo dire, Giulio, se tu ti ricordi bene, giù a Patatato, quando c'era la tua radio mobile DCP, quando se tu hai conosciuto la buonanima di Tore. La buonanima di Tore, Tore alla verde? Cappa del Rosero. Sì, allora sì, mi dimmi. E a me non mi avevo mai conosciuto. Allora io adesso te lo dico, io avevo per 31 anni il bar della stazione, ecco, ti ho detto già tutto. Ah, il bar della stazione, ho capito, sì, adesso qualcosa mi sta venendo in mente, però devo essere sincero, così la tua fisionomia non me la ricordo, però questo particolare sì, questo particolare non è nuovo e questo lo ricordo, ma la tua faccia sinceramente, mi dovrei scusare, ma non sono molto fisionomista, non me la ricordo proprio, guarda. Vabbè, non c'è problema, avremo modo di vederci verticale e ci rivedremo tranquilli. Io molto frequento di da frequento. Diciamo, quando capita ci fermo lì da Martabacchi di Casula. Martabacchi di Casula? E dov'è Casula? Sulla. Hai visto dove c'è centro casa? Proprio in là, molto più in là, capito? Dove c'è quel coso che vengono detti i ricambi di macchine. Sì, ho capito, lo senti, sì, quindi no, dove sono io praticamente, no? Dove sei tu, hai capito? Ma avrai visto lì, a volte, ma avrai visto lì facendo colazione, oppure ti danno le sigarette e tutto quanto, hai capito? Sì, non è escluso, questo non è escluso, perché anch'io già di tanto in tanto già ci sono andato lì e dunque è possibilissimo questo, però devo dire che continuo a non ricordare la tua faccia, la verità, ricordo molto bene il discorso della stazione, questo sì, non ci sono dubbi, ma del tuo viso no, il tuo viso non me lo ricordo, vabbè, avremo modo di rincontrarci così almeno mi illuminerà la memoria, la tua faccia mi illuminerà la memoria, o Leonci, e va bene, vediamo un po' se c'è ancora l'amico Giampaolo da Porto Torres, avanti Porto Torres, Giampaolo. No, dai, direttamente, sicuramente come ha fatto il passaggio Giampaolo, che sta naturalmente nella porta, ma non parte del microfono, ma c'è una risoluzione, in conseguenza non si sa mai. No, va bene, io naturalmente colgo l'occasione di salutare Leoncino, che ho capito, va bene, tu un pochettino deve trattarsi un po' anche con attenzione, naturalmente. Non lo sento tanto bene che a tua mamma fa tanto. Io lo saluto, le do la cordialità, a tutti e tutti gli auguri a lui, a te, a mia famiglia, ma anche a te, anche a te, grazie Luca, grazie per gli auguri e ricambiate accento a te, alla famiglia e tutti quanti, dai. Ok, prendo io adesso per salutare Salvatore. Ciao Salvatore, salutoni allora, grazie per gli auguri e il ricambio di cuore, non ci sono dubbi. Per me è sempre un piacere, perché io voglio bene gli amici, voglio bene le persone, dunque non disdegno di fare gli auguri, non soltanto in queste ricorrenze qua, ma anche in altre occasioni durante l'anno per vari motivi, per la salute, per il lavoro, per, insomma, per il benessere, per un po' troppo per tutto, ecco. È sempre bello augurare alle persone grande felicità e grandi e belle cose. Ciao Salvatore, salutoni e ci sentiamo, eh? Riprendi ancora e poi se fai il finalino poi devi chiudere, pazienza, ci sentiremo domani magari eventualmente. Va bene, d'accordo, il cambio della terra, io che vi ha fatto un enorme piacere qui nella 27, naturalmente, che riempie di gioia di sentire vecchi amici di tanti anni fa, e anche l'amico Leoncino, che rinnovo i saluti, naturalmente a tutti e tanti amici. Io chiudo, naturalmente chiudo, avremo modo di risentirci il prossimo anno, naturalmente, e da domani, se ne mette il mondo, naturalmente. D'accordo, bye bye, saluto. Ok, ciao Salvatore, ci conto, ricordati che hanno messo che ti fai sentire di nuovo, ci conto veramente, mi fa piacere, mi fa molto ma molto piacere di sentirti. Ok, ciao Salvatore ancora, saluto. Avanti Leoncino, siamo rimasti nelle soli in questo momento, Purtroppo, tu, lo sai che la potenza rimane da sola, come dice quello, meglio solo che male accompagnato. No, questa no, ma non eravamo male accompagnati, eravamo accompagnati da grandissime persone, ci mancherebbe altro, no? E vabbè, adesso quello, non ti voglio io fare un'obiezione, però forse non te ne sei reso conto, chi ci stava accompagnando erano delle persone, questo sicuramente, e lo so che tu l'hai detto così in buona fede, ci mancherebbe altro, Leoncino, dai, riprendi. Sì, no, stavo scherzando Giulio, no, ho detto, ma è in buona fede, capito, non è che ho preso nessuno. Diciamo che, come si dice il proverbio, quello là, meglio soli che male accompagnati, no, quando sei da solo, capito? Ah, ecco, intendevi in quel senso, sì, ho capito, sì, allora è stato un errore mio. D'accordo, Luigi. Vabbè, la frequenza è bella per quello, perché avere gli apparati e non poterli usare perché non c'è nessuno sarebbe veramente brutto, no? Poi chi ha la passione alla radio è bello che di tanto in tanto accenda per ascoltare, sentire un po', scambiare quattro chiacchiere con gli amici e diciamo che amici OK ce ne sono tanti in frequenza e devo dire che in questo ultimo periodo, diciamo in questi ultimi 2 o 3 anni, io ho riscontrato persone tutte quante in gamba, uno meglio dell'altro, dai, è sparita la mania della portante, sì, qualcuno in tanto in tanto lo può anche fare, ma sono casi sporadici, sono sparite anche, se vogliamo, la quantità enorme, la volgarità delle parolacce, insomma, diciamo che tutto sommato, la frequenza è bella come lo era bella prima, nonostante che prima c'erano tante persone maleducate, ma come ho detto poc'anzi, se ce n'erano 10 maleducate, ce n'erano 1000 invece educate e tutto ricompensava, capito Leoncino? Ho capito, lo sai, gli amici si vedono nel momento, capito, quando si rispettano e tutto quanto. Io, cioè, mi sono sempre comportato abbastanza bene, dunque rispetto tutti e tutti quanti i componenti, capito? E quello a me fa piacere ascoltare a te, a Giampaolo e poi a Salvatore, che Salvatore ci conosciamo anche di verticale, perché quando c'era il vecchio CP giù a Porotoro si è fatta tanto di fronte al porto, dunque io mi ero segnato quando c'era la buona vittoria, hai capito? Sì. Purtroppo poi se n'è andato da qualche mese, così 1 o 2 mesi, non di più. Peccato, mi è dispiaciuto, Mi è dispiaciuto perché noi ci conoscevamo da sempre praticamente con Tore. Pensa che lui di tanto in tanto passava da me in bottega a salutarmi, eccetera. E mi ricordo, mi è venuto in mente anche un fatto di 20-25 anni fa, si aveva appena comprato il TS-140, il Kenwood 140, si aveva comprato, l'aveva appena ritirato. fatto, mi è venuto giù, guarda che l'ho modificato, non so, mi ricordo cos'è che aveva fatto, io all'anno mi ha fatto storie, caspita, non l'ho portato nemmeno a casa ancora, l'hai ritirato dalla cosa, come si chiama, dalle poste, il pacco, e l'hai fatto già, sì, sono passato, non so dove, da un radiotecnico, e l'aveva fatto fare questa modifica subito, fatto all'anno, e io dice che te lo faccio ascoltare a casa, io credo, lo proviamo, e devo dire, sono andato a casa sua, sono andato, me l'ha fatto ascoltare, l'abbiamo provato, era un bellissimo apparato, beh, da quel momento mi aveva convinto, me l'avevo comprato anch'io, me l'avevo comprato, però io allora abitavo in un'altra casa, non abitavo qua dove sono adesso, l'antenna era quella che era e praticamente lo utilizzavo solo in ricezione, ma mai in trasmissione, perché avevo l'antennino, avevo allora in quel periodo. Perché non potevo, abitavo in casa in affitto, allora non potevo salire sul tetto per mettere l'antenna come si deve, e allora ce l'avevo sempre conservato. Poi avevo un amico di Porto Torres che ce l'avevo sempre alle costole e mi aveva convinto, alla fine gliel'ho venduto, era un apparato che costava allora 2200, cioè non 2000, 2001 e 200, una linea 220, una cosa del genere, non mi ricordo bene preciso, e c'era l'apparecchio, c'era l'alimentatore e il microfono MC60, insomma era un bel apparato sinceramente, e gliel'ho venduto poi per molto ma molto meno, ma intanto ce l'avevo sempre conservato nel rigabuzzino in casa e non lo utilizzavo, e devo dire però sinceramente io non ho mai venduto un apparato, l'ho sempre comprato quando è stato il momento di comprare, e me ne sono pentito di aver venduto quell'apparato lì, vabbè, pazienza, non fa niente. Quando le cose, sai, le situazioni, poi è molto difficile che si rivalle, capito? È come la macchina, è la macchina, quando ti affezioni alla tua macchina e ce l'hai un sacco di anni, mi dispiace darla perché ormai ci ho passato quasi tutta la vita, capito, con quella macchina. Sì, ma devo dire che anche per le macchine, io le macchine le ho sempre consumate. Adesso questa che ho adesso è nuova perché ha appena 7000 km, ti puoi immaginare, ce l'ho un anno e 5 mesi, un anno e 6 mesi, una cosa del genere, ce l'ho, avevo comprato la C3, prima avevo una Opel Vectra, avevo 1600, adesso questa invece, questo qui è 1100 praticamente, 1100, 1130 di cilindrata, ma mi va benissimo così. L'avevo pagata 10.000 euro, tondi, con la radio, con l'aria condizionata e tutte queste belle cose qua. Allora, a dire la verità stavo comprando la Panda, ne stavo comprando, poi sono andato a chiedere il preventivo, la Panda, costava più di quanto costava la C3, questa che adesso è C3, non la Citroen. E come prestazioni è sicuramente inferiore alla Citroen, la Panda. E allora ho preferito comprare questa. Pensa che avevo girato un po' tutti i negozi per vedere le varie macchine, no? E poi alla fine l'ultimo che ho chiesto e mi sono fermato e ho deciso di prendere la Vecchia lì. Però 4 anni fa avevo comprato anche la Ford Fiesta con le 1200 di cilindrata, come macchina sicuramente superiore alla C3, ma quella diciamo che adesso la usa mia figlia, la usa, perché è chiaro che anche lei ha bisogno della macchina quando va al lavoro eccetera, e di conseguenza ci abbiamo due macchine a casa nuove, capito Luigi? Ehi, è quello il discorso, per il resto tutto bene, no? Per il resto già va bene, però quello che conta sempre, io sono sempre, non tanto per i soldi quanto per la salute, quando la salute va bene arrivano anche i soldi, perché uno lavora, uno si muove tranquillamente e guadagna, tutto lì, Luigi. Una cosa giù. Tu la fai una barra pesante rossa? No, io ho una Citroen C3, poi la Ford Fiesta, che sempre ripeto è la mia stessa, ma la usa mia figlia, e poi ho un motocarro per il lavoro, quello per il trasporto del materiale, quando, e anche per le consegne, quando consegno il lavoro, ho motocarro tre ruote, una a pe. Sì, no, per caso. No, è gialla, gialla. Allora, no. Stavo confondendo con un'altra persona che c'era questa motocarro che è venuta da noi, stavamo facendo un lavoro e ha caricato un po' di sabbia e ghiaia, facciamo vedere tu, hai capito? No, assolutamente, no, io faccio tutto l'altro lavoro, io ho una falegnameria, capito? E il mio cuore è per quello, comprare il legname, quando lo faccio il lavoro lo consegno con quella moto, perché mi è necessario, insomma, averla, se no devo riprendere il motocarro e poi non posso, anche perché io la devo avere a disposizione, in quanto vado, il mio cuore vuol per dire, non so, 5, 6, 10, 20 tavoli, quello che vado, carico e me li porto subito all'istante, oppure da caricare o degli infissi o dei serramenti da portare via, me li devo sistemare pian piano sul motocarro, imballarle come si deve, perché a casa del cliente devono arrivare sane, senza graffi, senza marcature, senza niente. Tutto questo con quelli che ci sono lì a Santa Maria, quelli che usano il motocarro come lavoro, che fanno i viaggi, non lo puoi fare, perché quelli hanno sempre fretta, e poi il motocarro sono già 30 anni, ti puoi immaginare. Non è a luci, sono 42 anni che lavoro contro mio e già da 30 anni fa ho un motocarro, capito? Scappa, non c'è problema, dai. Non c'è problema, caro Giulio. E no, forse voglio dire un'altra cosa, se ti ricordi vecchio CB di Tonino Cavalgiacchi. Altro che, se mi ricordo, come no, certo, Tonino Cavalgiacchi aveva un microfono come quello che sto usando io adesso, cioè praticamente il termine più tra tavolo, però lui aveva anche il Galaxy Saturno Echo e con quella microfono lì era una bomba veramente, sì, me lo ricordo, certo che me lo ricordo, adesso non so se lui l'apparato ce l'ha ancora, perché in frequenza non si è più sentito già da anni, però non so se il baracchino gli è rimasto o se se l'ha venduto, non lo so questo. No, io l'ho visto quando era un paio di mesi fa, che l'ho visto in macchina, però mi ha detto, a quanto ho capito io, che lui non voleva più sapere, dunque, perché dove abita adesso, di antenna non gliene fanno piazzare, capito? Ho capito, sì, beh, anche quello è vero, alle volte ci sono delle impossibilità di installazione di antenna, proprio perché soprattutto anche se uno ha il sacrosanto diritto di poter installare l'antenna su qualsiasi tetto, non ci sono dubbi, però secondo dove uno abita magari ha a che fare con altre persone, allora le difficoltà nascono e uno per il quieto vivere lascia perdere, riduce magari a l'installazione dell'antenna, pur di stare in pace con la gente del vicinato, eccetera, eccetera, capito Luigi? Per carità, è un casino e dunque adesso sta preparato per il cenone, dunque mangiate forte. Io qui adesso tra un po' verso l'estate incomincia ad arrivare tutta la truppa, qui arrivano parenti, arrivano una quindicina di amici di mia figlia che gli ho messo a disposizione la tavernetta, gli ho messo lì, voi divertitevi lì e noi siamo qua, siamo sempre tutti insieme, naturalmente a cena ci siamo insieme, però sai come la gioventù con la gioventù, le persone di una certa età con le persone più mature di età, diciamo, no? E dunque, anche perché i giovani, tu lo sai, sono un pochino più scapestrati, allora si divertono alla loro maniera e non certamente alla maniera di quelli della mia età, capito Luigi? Eia, è così, caro Giù, i giovani sono più, diciamo, un altro divertimento, sette minuti, diciamo, anch'io sono giovane, però adesso alle 7 devo essere in un bar, mi hanno telefonato, devo essere, facevo faccia il favore di andare a questa giornata, e ho detto vabbè, dipende anche dal prezzo e si può anche fare, no? Invece sarebbe ognuno fa quello che crede, non è che no, diciamo che questa guerra di amici, sai, tutti chi è dottore, chi è avvocato, tutti gli amici di mia figlia sono, no? Perché anche mia figlia era una dottoressa, e allora sai, sono riuniti, ho fatto, ma dice, ma che ci fa fare andare a buttare 85 euro anche 100 euro a persona quando noi qui e poi non possiamo fare quello che vogliamo, invece a casa dice c'è la casa a disposizione che i miei genitori mi mettono, venite a casa, non se ne parla più, c'è la musica, c'è tutto, c'è chi canta, chi non canta, c'è abbiamo anche l'altoparlante con l'amplificazione, ti puoi immaginare, perché la mia famiglia è una famiglia di cantanti, tutto sommato, e allora solo io sono stavato, ma fra figli, fratelli, nipoti e tutti quanti, tutta gente che sa cantare, e allora se ti puoi immaginare se non si fa festa, si fa festa e come? Ok, è così, è così. Vabbè, dai, tu mi ha fatto piacere sentirti dopo tanto tempo in frequenza e ti auguro tutto quanto bene che vuoi a te, alla tua famiglia e alla tua figlia, tutti quanti un buon 2011 e con tutto quanto le cose che vi direi. Ok Luigi, ti ringrazio tanto per le belle parole che mi hai detto e io te li contraccambio, guarda, con una stretta di mano, anche un abbraccio così da amico, non ci sono dubbi, tantissimi auguri a te, alla famiglia e a tutte le persone che ti sono care, non ci sono dubbi che a me mi fa piacere sentire e sapere che le persone stanno bene. Ancora salutoni a Redentici di Luigi, domani se hai tempo io sicuramente accenderò e vedremo un po' se possiamo incontrarci in frequenza. Ciao Luigi, salutoni, grazie per la grande chiacchierata che abbiamo fatto, molto molto bella, ciao ciao. Ciao Giù, ciao, ci sentiamo domani, se capita, se facendo il baracchino, dai, ciao ciao, comunque nuovamente buon divertimento, ciao ciao. Ok, ciao Luigi, ciao, salutoni. Ciao Don, per quanto riguarda il sentieri, niente, quanto ho capito che qua è solo, diciamo, quando vengono in posizione, vabbè dai, ci sentiamo, stavi bene, faccia il suo lavoro, però non si è visto, è bello, ah, come... Un abbraccio a te e a un caro amico mio, ci sentiamo, stare bene, ciao, ciao anche a te, ci sentiamo con la passata anche a te, ciao. E riprendo io già qua per salutarti ancora, ci salutiamo, con buona armonia e ci sentiremo eventualmente domani. Auguri di vero cuore a Redentici, ti faccio sapere che quando è avanti ieri ero lì a Porto Torres per un lavoro lì nel cantiere navale che c'è lì dove c'è la cosa della marina militare, come si chiama? Vabbè, già mi è capito al porto dove c'è quel palazzo, dove c'è la cosa della marina. Ero lì dai maestro Leo, c'è una barca di un mio amico che io gli faccio sempre la bulla del regolamento interno, gli faccio sempre di questa barca e anche avanti sono andato per ultimare una piccolezza che c'era ancora rimasta e di tanto in tanto già mi faccio sentire anche a Porto Torres. Ok, ciao Giampa, salutoni, auguri a te famiglia, stammi bene, tantissimi auguri e un abbraccio fraterno, ciao ciao. Ciao, a domani, ciao. Ciao, Gianpa, ciao, benvenuti, ciao.